Allora, buonasera a tutti, ciao, bentrovati. Io sono Patrick Curru, vi saluto brevemente a nome insomma della biblioteca. Doveva accompagnare questa presentazione la direttrice della biblioteca, la dottoressa Trevisan, ma siamo impegnati in una missione abbastanza impossibile, che è quella del PNRR, che ormai è fantomatico, una riunione che è ancora in corso dopo molte ore. Io ero collegato e quindi sono arrivato ora anch'io di corsa, e quindi purtroppo si scusa ma non potrà essere qui questa sera. Quindi io vi porto i saluti della biblioteca. Io sono contento di avere qui di nuovo il professor Colletti dopo, secondo me sono passati più di 10 anni. Quando abbiamo presentato quadri di un'esposizione, eravamo, secondo me era il 2011, può essere, ecco, eravamo alla biblioteca Claudio Augusta in un'altra sede, in via Mendola, non so se qualcuno si ricorda, era presente anche lì. Come vedete, molte cose sono cambiate in questi anni. Adesso siamo al Centro Trevi, in una sala molto bella, molto, molto spaziosa, accogliente, eccetera. Quindi io sono contento di avere di nuovo il professor Colletti qui con il suo nuovo romanzo e che abbia scelto anche di presentarlo qui alla biblioteca. Io vi ricordo rapidamente i prossimi appuntamenti della biblioteca prima di lasciare la parola al professor Colletti. Già il primo di marzo, come ogni primo mercoledì del mese, abbiamo riattivato questo sportello biblioweb. Quindi nel pomeriggio le persone possono venire in biblioteca se hanno dei dubbi con questa piattaforma che ormai tutti i nostri utenti conoscono, per vedere, scaricare in prestito ebook, leggere giornali. Se i nostri utenti hanno delle problematiche legate a questa piattaforma, possono venire in biblioteca e c'è il collega Fabio Ferrarese che proverà a rispondere a tutti i vostri dubbi. E noi però avremo anche giovedì 2 marzo una presentazione di un altro libro, che è L'altro Adige, quindi è un libro di Carlo von Guggenberg. Carlo von Guggen, che sarà accompagnato da Alberto Stenico, e presenterà questo suo ultimo libro dedicato alla storia dei Dableiber, degli optanti e alla nascita del partito, alla nascita della Volkspartei. Quindi questo sarà giovedì. Quindi io vi ringrazio di essere venuti questa sera. E spero di rivedervi nelle prossime iniziative della biblioteca, e ringrazio il professor Colletti e gli lascio la parola. Buona serata ancora e grazie. Grazie, ringrazio il personale della biblioteca e la direttrice, anche se non è potuta venire, ma ha detto che forse se ce la fa magari arriva verso la fine. Ringrazio tutti voi per essere venuti, perché so che non è facile trovare il tempo per venire. C'era anche una certa concorrenza oggi, se non sbaglio, no? con scrittori ben più importanti di me, insomma. Quindi sono molto contento e onorato della vostra presenza. Allora, vorrei parlare di questo libro, che è stato un lavoro che si è protratto molto lungo nel tempo, anche se in maniera molto discontinua, e che è iniziato addirittura, avevo iniziato prima del libro che ha citato Patrick, del 2011, e l'idea era nata proprio sui banchi di scuola, facendo lezione a classi dell'indirizzo umanistico e linguistico, per le quali la fisica è più che altro forse molto spesso un po' una specie di incidente di percorso, qualcosa da superare, da mettersi alle spalle per poi concentrarsi sulle lingue o sulle lingue classiche, eccetera. Però naturalmente di fronte a me vedevo delle persone dotate di una certa sensibilità, di una certa intelligenza, anche se magari non versate verso la scienza. E quindi è stata un po' una sfida per me trovare il modo di collegare gli argomenti della scienza, in particolare della fisica, alla sfera umanistica. Fare rientrare la fisica lì da dove era partita, diciamo, insomma, dall'ambito culturale, che poi nel suo cammino è diventata sempre più una cosa per quelli che Benedetto Croce ha chiamato ingegni minuti, no? Questi ingegni minuti che è un po' Croce intendeva quel minuto sia per mettere in rilievo il fatto che lo scienziato tende a concentrarsi su piccolezze, su dettagli, quindi a perdere la visione d'insieme, quindi diciamo la cultura, la portata culturale della scienza, sia quel minuti era un po' anche un po' squalificante, probabilmente suonava, no? nei confronti degli scienziati. E quindi la sfida di questo libro è stata proprio di riportare nella sfera umanistica i concetti della fisica, cosa che ho provato in prima persona e che provo ancora sui banchi di scuola. Poi qui c'è poi tutto stato, diciamo, immerso in una vicenda romanzata, studiata in modo che si mettesse in rilievo appunto l'essere umano, insomma, no? Quindi in questo caso una sofferenza del protagonista. Vi leggo subito l'incipit in cui appunto ci troviamo di fronte alla figura del professor Taglianti. Il professor Taglianti si fermò ad aprire l'ombrello, alzò la testa e guardò in alto, nel punto esatto dove terminava il porticato e ricominciava la pioggia. Venne colto da una sensazione di impotenza. Si sentì come un'anonima porzione dello spazio in cui, per pura aleatorietà, una miriade di atomi irrequieti erano convenuti per dare forma e sostanza a uno dei tanti eventi di ciò che chiamiamo natura. Anche lui, come ogni altra cosa, era un grumo ben organizzato di particelle. Fece un passo avanti, le gocce ripresero del loro forsennato picchiettio, una danza tra le innumerevoli altre. Secondo le stime più recenti, ci sono infatti 10 alla 80 atomi nell'universo, dei quali 10 alla 50 costituiscono la Terra e tutto ciò che le appartiene. A parte un po' di polvere meteoritica che viene ad aggiungersi di tanto in tanto, gli atomi terrestri sono sempre gli stessi da 4 miliardi e mezzo di anni. Da allora si combinano e ricombinano di continuo, come in un eterno minuetto di dame e cavalieri. Il fatto stesso che non siano infiniti ne rende limitate anche le possibili configurazioni, molte, moltissime, ma finite, sicché come se la storia del mondo fosse già stata scritta dal principio. Il numero e la varietà dei volti delle persone, gli scatti degli animali, l'altezza delle piante, tutto già previsto nel gran libro della contabilità naturale. L'uomo abbassò lo sguardo verso le scarpe, ormai umide per l'acquazzone estivo. Poggiavano esattamente su due Stolpersteine, i San Pietrini incassati nell'astricato in ricordo delle vittime della furia nazista. Giusto a proposito, ecco che cos'è il mondo, un imperterrito silenzioso olocausto quotidiano che si compie su minuscole scale dimensionali. Il nostro corpo, natura della natura, lo riceviamo in prestito ogni giorno, con l'aggiunta di tanti microscopici pezzettini e il contemporaneo rilascio di altrettanti, in uno scambio continuo con l'ambiente, come accade a ogni altro essere vivente prodotto dalla grande officina del creato. Così gli atomi di calcio che fino a qualche giorno fa stavano ben appiccicati ad atomi di fosforo nel ventre caldo di una vacca, ce li ritroviamo poi incollati a un osso, proprio dentro di noi. Prima ancora, questi stessi atomi sono stati parte del pascolo, abbandonati lì da chissà quale precedente aggregato minerale, vegetale, animale o industriale. Per ogni cosa, infatti, a un certo punto avviene il tracollo finale. Come un immenso esercito cui sia stato dato il sciogliere le righe, i suoi atomi se ne vanno ciascuno per le strade dettate dalla chimica e dalla fisica. Due regine che, a differenza della vita, non abdicano mai. Ad alimentare tutto questo cieco marchingegno è il Sole, che da miliardi di anni, ininterrottamente, scuote qua e là la moltitudine delle particelle. E noi e le nostre esistenze con essa. Taglianti allungò il passo. Non c'era altra verità che quella. Quindi il protagonista, beh, adesso magari vi dico un po' quali sono, aiutandomi con delle immagini. Ah, magari una spiegazione della copertina, questa mi è stata suggerita dall'editore, è un quadro molto famoso di Mondrian, composizione di un centinaio di anni fa, e viene citato proprio nel testo, dove appunto c'è tutto un intrecciarsi tra i concetti della fisica e i concetti di discipline ritenute più umanistiche, come anche l'arte. E a un certo punto una delle protagoniste, una delle allieve, dice, viene descritta la sua reazione appunto ad una spiegazione di un concetto. Giulia non riuscì a trattenere una proposta. Se il nodo concettuale è questo, credo che potremmo collegarci a Piet Mondrian. Il suo ideale artistico era la scomposizione di qualunque soggetto in linee orizzontali e verticali, che è come dire proprio secondo la direzione del mondo e quella dell'anima, due realtà perpendicolari e irriducibili l'una all'altra. Quindi, se vogliamo, la direzione del mondo è quella della fisica, e la direzione dell'anima è quella di fronte alla quale il protagonista all'inizio e alla fine, meglio, si dovrà arrendere, capendo che non tutto può essere spiegato dalla scienza, ma che in qualche modo la scienza può dare comunque un contributo. Diciamo, mi sono occupato di questa distanza, o di provare a colmare la distanza tra l'ambito scientifico e quello umanistico, anche in campo più, diciamo, accademico. Questo è un articolo che ho scritto qualche anno fa, in cui elencavo delle possibilità per ridurre la distanza tra il mondo letterario e quello della fisica. Una cosa molto curiosa, che è poco nota in Italia, è che quando iniziò la rivoluzione informatica, nei primi anni 80, l'amministrazione americana, il presidente allora era Ronald Reagan, e incaricò un gruppo di famosi scienziati, quando dico scienziati in questo caso intendo proprio scienziati fisici, chimici, informatici, matematici, ingegneri, di elaborare un piano di studi che portasse la gioventù ad essere preparata appunto per l'introduzione dell'informatica. E dopo mesi di riunione questo gruppo di persone stese questo rapporto, che si chiama rapporto Mortimer, dal cognome di chi presiedeva questo gruppo, e sorprendentemente quello che uscì dalle teste di questi scienziati fu che per preparare i giovani alle scienze e alla rivoluzione informatica, in quel caso, non si poteva fare nulla di meglio che insegnare loro il greco, il latino, la filosofia, la storia, e poi naturalmente anche le basi del sapere scientifico, ma che non si poteva trascurare, diciamo, il contesto generale e umanistico. Ecco, allora così vorrei descrivervi un po' i personaggi che troviamo in questo racconto, l'ambientazione. L'ambiente, naturalmente, mi sono ispirato a quello che conosco meglio, che è la scuola, e quindi i concetti della scienza prendono carne prima di tutto attraverso le vite di questi personaggi, che per un motivo che poi vi dirò saranno portati ad indagare in maniera un po' particolare i concetti della fisica. Un personaggio che avete già incontrato è Giovanni Taglianti, che è un ricercatore del CERN di Ginevra. Diciamo, la sua mente è dominata dai concetti della fisica e non se ne rende quasi conto fino al giorno in cui si scontra con una realtà brutale, cioè viene a perdere la moglie e resta solo con la figlia, la moglie Maria, resta solo con la figlia Anna. E quindi, per varie vicissitudini, diciamo, familiari, decide di momentaneamente, perlomeno, di raggiungere la figlia in questa piccola città delle Alpi, quindi lasciare Ginevra momentaneamente e trovare un impiego temporaneo come insegnante in un liceo. E l'altro protagonista, da cui prende il nome appunto il romanzo, è Joseph Bariotti, ex professore di filosofia di questo liceo, ex professore di filosofia di Taglianti, che ha un passato che nessuno conosce, tutti lo conoscono quel professore molto preparato, molto, molto cordiale, molto dedito alle sue lezioni, e in realtà nasconde un passato di giovane partigiano che finisce catturato e spedito in un campo di concentramento ad Auschwitz, dove fa la conoscenza di un rabbino, Shlomo, e della figlia Hannah, di cui si innamora. Joseph riuscirà a cavarsela, riuscirà a sopravvivere, uscendo stravolto anche nell'ordine delle sue idee da questa esperienza, e anche da ciò che lui impara lavorando fianco a fianco nel lager con il rabbino, e con diciamo un amore per Hannah che cercherà ancora per diversi anni un po' in giro per l'Europa sperando di poterla rincontrare. E Joseph, sostanzialmente la base del romanzo è che Joseph lascia una strana eredità, cioè lascia in eredità ai suoi ex alunni i libri della sua libreria personale. E quindi anche Taglianti si reca in maniera molto disinteressata in questa libreria, sceglie il suo libro, ne riceve uno che era stato previsto per lui dal professore, che aveva previsto un libro specifico per ogni suo allievo, e poi uno lo sceglie, e proprio nel libro che lui sceglie trova un messaggio, una lettera a lui indirizzata dal professore, che diciamo lo sollecita a guardare la sua scienza con occhi un po' nuovi, facendosi in questo aiutare dalle sue nuove classi, del suo nuovo lavoro di insegnante e dai colleghi, no? Quindi lui poco convintamente inizia questa scoperta che è ritmata da una serie di indizi che Joseph ha disseminato nei libri della biblioteca scolastica. E per andare da indizio a indizio è necessario condurre un qualche ragionamento in cui dalla fisica ci si allarghi verso settori umanistici. E quindi qui incontriamo altri protagonisti come l'insegnante di religione, Don Marcello, l'insegnante di lettere, un insegnante del quale ho dovuto fare dopo fingere più che mai, insomma, perché era un insegnante postale, fa italiano e filosofia. No, di solito non so se esista una figura di questo tipo nella scuola italiana. E poi due classi, in cui per ogni classe abbiamo un 6-7 persone che spiccano, in particolare un S2, Patrick e Greta. Perché Patrick e Greta, proprio loro, insomma, per capirlo bisogna leggere il libro. Ecco, qua c'è un elenco degli indizi, alcuni di questi indizi li ho riportati anche sul segnalibro che potete prendere se volete, ne ho stampati alcuni. E il primo è il gigante che sfidò Isacco ti conduca, e poi appunto ragionando su questo si arriva al secondo, vado cadendo eppure al cadente fermo appaio. Faccio un esempio del tipo di ragionamento che viene proposto proprio con questo. Quindi vado cadendo eppure al cadente fermo appaio. Allora, questo naturalmente all'insegnante di fisica fa venire in mente uno dei grandi principi della sua scienza, che è il principio di relatività, no? E quindi si parla di Galileo, degli esperimenti condotti nel Gran Naviglio, dove se voi avete appunto che la barca si muove senza scossoni, con velocità costante, avete le farfalle che si muovono in tutte le direzioni, potete lanciare il pallone facendo la stessa fatica sia se lo lanciate in una direzione che nella direzione opposta, se c'è un vaso che perde dell'acqua queste gocce si infilano perfettamente nel vaso sottostante e non rimangono indietro, no? Quindi tutto avviene esattamente come se il galeone fosse fermo. Se il galeone è moto o è fermo, tutto avviene nello stesso modo. Questo è il principio di relatività. Allora iniziano a pensare come a che cosa ci si può collegare, sembra qualcosa di prettamente così scientifico. E invece proprio distrattamente una delle alunne, mentre leggono il 17° canto dell'Inferno della Divina Commedia, ella se ne va notando lenta lenta la descrizione del movimento di Gerione, questo mostro che trasporta Dante da un girone all'altro, dice, rotta e discende, ma non me ne accorgo se non che al viso e di sotto mi venta. Cioè dice Dante che è seduto in groppa a Gerione, se non sbaglio in altri versi dice che è tutto buio, quindi non ha dei riferimenti visivi, gli sembra di essere fermo, se non fosse per la veste che si alza per l'aria, no? Non me ne accorgo, esattamente come Galileo dentro la barca dice, dalle osservazioni che faccio non posso dire se la barca è in movimento o no. Quindi questo è stata una vera e propria scoperta che hanno fatto dei fisici leggendo la Divina Commedia, se non sbaglio un fisico di Trento, aiutando la figlia a fare i compiti, ha retrodatato di 300 anni, questo non è romanzo, questo è proprio cronaca scientifica di qualche anno fa, aiutando la figlia a fare i compiti, si è accorto sostanzialmente che Galileo, che Dante aveva enunciato il principio di relatività 300 anni prima di Galileo. Poi nel romanzo la discussione è di adesso cosa facciamo? La professoressa di lettere si accorge che quel verso era scritto in una maniera particolare, cioè sono tre righe, la prima di 5 di sillabe, la seconda di 7 e la terza di 5, dice, quindi è un haiku, no? Cioè la tipica poesia giapponese in cui con pochissime parole si cerca di cogliere, di fissare la verità. Allora lì nasce un discorso in cui si confronta il potere della poesia, la capacità, cosa significa trovare la parola giusta, l'aggettivo giusto per descrivere un oggetto. E questa è un'operazione che assomiglia molto anche a quello che si fa in fisica, quando bisogna trovare i parametri giusti con cui descrivere un fenomeno fisico. Non tutti i parametri, se voglio descrivere la caduta della mela, ad esempio, mi accorgo che il colore non è importante, nemmeno il sapore, no? Devo concentrarmi su altre cose, sulla massa. E questo è, diciamo, quando il fisico ha successo, così come quando il poeta trova la parola giusta. No, per dire c'è solo quella parola lì che può esprimere esattamente quello che lui prova osservando un certo fenomeno. E in questo modo poi appunto i protagonisti arrivano a trovare il successivo indizio, non so se vi dico, allora non ve lo dico, mettono insieme insomma il giapponese con la Divina Commedia. Pure un altro esempio, ecco, è la luce. Beh, la luce, insomma, al di là della fisica si sa che ha un grande potere metaforico, no? Portare alla luce qualcosa, venire alla luce, no? Dimenticavo di dire che nel libro dopo ogni indizio c'è una specie di ulteriore rielaborazione scritta in forma così un po' intimistica da parte di Mariotti. Ci sono sostanzialmente delle testimonianze che Mariotti ha lasciato, che a un certo punto saltano fuori, ma che nel libro sono messe sin dall'inizio, dopo ogni indizio, per spiegare, in cui Mariotti, anche sulla base della sua esperienza nel Lager, insomma, fa vedere come la fisica ci apra, i concetti della fisica ci aprono degli orizzonti, anche se non siamo scienziati, ad esempio il principio di relatività, no? All'epoca di Einstein uno dice tutto è relativo, no? E dice anche, ad esempio, andiamo nel mondo dei valori, no? E chiaramente anche lì vediamo che tutto è relativo, no? Già ce l'abbiamo spiegato gli antichi, no? Che quello che era un valore in un popolo era un disvalore in un altro, eccetera. Quindi, però in realtà, dice Mariotti, se guardiamo bene quello che avviene in fisica, Einstein dice che tutto è relativo, dice che le leggi della fisica sono sempre le stesse in realtà, no? Che sono sempre le stesse in tutti i sistemi di riferimento, e se non sono le stesse non vanno bene. Quindi dice, e quello che succede è che sono le stesse, le leggi sono delle relazioni. Allora, mentre le singole quantità dipendono dall'osservatore, la relazione tra le quantità è la cosa che non cambia. Allora lui dice, forse questo, ecco, se leggiamo la fisica così, chiediamoci se potrebbe essere così, non dà una risposta. Dice, è così forse anche nel mondo degli umani, dove quello che conta è la relazione tra i valori, più che i valori stessi. No? Possiamo provare, non è che la fisica ci deve per forza insegnare qualcosa, ma ci suggerisce magari così un ordine di idee che possiamo esplorare, che possiamo mettere alla prova. E nel capitolo sulla luce c'è questa frase, una luce nel campo. Allora qui naturalmente c'è tutta la spiegazione su quello che è la luce, su quella che è stata la storia della natura della luce in fisica, e sostanzialmente che viene risolta, anche se in realtà temporaneamente, ma diciamo così, che viene risolta per quasi tutti gli scopi pratici, da Faraday e Maxwell, no? Che ci spiegano che la luce non è materia, ma è qualcosa che è fisico, ma non è materia. E anche qua, se vogliamo, la fisica ci apre un ordine di idee, che se noi pensavamo che il mondo fosse tutto fatto di materia, di atomi, di molecole, eccetera, c'è qualcosa che è oggetto della fisica, che è molto importante, ma non è materia, non è materia. No? Tant'è vero che all'epoca ci fu anche un altro scienziato di primo ordine, Oliver Lodge, che forse anche spinto dal, anche lui forse come Taglianti, da un grave lutto, aveva perso il figlio in guerra, e inizia a pensare che le anime possano essere sostanzialmente in questo mondo di etere, che è il mondo della luce. Questo è Oliver Lodge, ha fatto dei scritti molto suggestivi, molto poco scientifici, però diciamo lui ha usato la fisica per cercare di rilanciare il pensiero, un nuovo ordine di idee. E così anche nel romanzo si parla ad esempio di come la luce metta in luce, a caso di dire, non riesco a dirlo in un altro modo, l'importanza della relazione, no? Perché la luce, faccio un mini esperimento, dimostrazione. Allora, questo è il raggio laser. E certo che c'è molta luce qui, qua non si vede, si possono spegnere queste qua magari? Grazie, forse è troppo lo stesso, ma proviamo. Allora, qui c'è un raggio laser, lo vedete? No. Ci devo mettere la mano e allora lo vedete, magari si può fare anche meglio, siccome mi hanno chiesto se era farina del mio sacco, il libro, ho portato effettivamente della farina nel mio sacco. Vediamo se c'è troppa luce, ci vorrebbe, non si può fare più buio di così, vero? È lo schermo qui. Peccato. Ci riprovo ancora. Un attimo. Ah, si è spento adesso, giusto? Vedete? Quindi, ok, possiamo riaccendere. Era proprio una cosa minima. Era solo per fare la battuta della farina di un sacco. No. E qua Mariotti dice. Lo dice. E Hertz contribuì a tracciare il caratteristico spartiacque tra materia e radiazione, tra oggetti e luce. Curioso ed eloquente è il rapporto tra questi due enti. Senza l'energetica impalpabilità della luce, gli oggetti sfuggirebbero allo sguardo, inghiottiti nella notte in cui tutte le macchie sono nere. Mariotti è un filosofo. D'altra parte, senza oggetti capaci di rifletterla, la luce mancherebbe impotente nel cosmo, annichilita nella sua stessa essenza, che è per definizione quella di mostrarsi nel mostrare. Un'analoga reciprocità vincola l'uomo all'assoluto. Il Logos ha bisogno, infatti, del suo mediatore per eccellenza. Senza le relazioni tessute dall'umanità non ci sarebbero arte, poesia, amore, scienza, e tutto l'astratto rimarrebbe incompiuto. L'uomo e la sua storia sono lo specchio, il prisma, lo schermo opaco, il reticolo di diffrazione attraverso i quali l'assoluto virtuale perviene alla sua coagulazione reale. Certo, a volte lo riflettiamo perfettamente, come quando risolviamo un'equazione o facciamo proprio la cosa giusta al momento giusto. Altre volte emerge da noi come un raggio di luce rifratto, e cioè distorto e rallentato, o fratturato nella transizione dal pensiero all'azione. Talvolta si disperde addirittura mille piccole ragioni, ognuna perfettamente coerente con la sua radice originaria, ma leggermente distinta da tutte le altre che ne sono scaturite. In altre occasioni ancora, e sono la grande maggioranza, nel penetrare attraverso le strette e variegate finiture della storia e della vita, o nell'investire financo le più piccole opacità della materia, il logos originario si diffrange. La sua luce riemerge sparpagliata qua e là negli eventi e nelle persone, frammischiata a zone di buio cristo. Se si andasse ad analizzare la cosa un po' più nel dettaglio, ci si troverebbe addirittura dinanzi a sottrarsi l'una dall'altra di validissime ragioni, a un processo di interferenza distruttiva che nega la luce della verità laddove invece era destinata. Oppure di fronte a fenomeni di interferenza, stavolta costruttivi, che invece riescono a ricomporla nel punto in cui si incontrano due follie. Lo spirito che soffia nel mondo è come la luce, dunque. Esso ha bisogno della materia umana per potersi attuare e rendere visibile, proprio come l'uomo necessita della luce dell'assoluto per realizzare autenticamente se stesso. Prima veniva descritto nel lavoro in classe tutto questo armamentario teorico che Mariotti usa in maniera metaforica, quindi la diffrazione della luce, la rifrazione, la diffusione, la riflessione. No, quindi questo è un po' lo spirito del libro, su cui vorrei dirvi ancora un paio di parole, perché secondo me il problema dell'insegnamento, dell'apprendimento della scienza, della fisica a livello culturale è un problema importante della nostra epoca, e forse anche la pandemia ce l'ha mostrato un po', no? Delle difficoltà di capire anche che cosa significa che qualcosa è scientifico. Quindi questo è quello che può capitare a scuola e che forse si potrebbe rimediare in qualche cui si potrebbe rimediare in qualche modo, anche, non dico di sostegno, anche introducendo, a seconda del livello di scuola, una riflessione. Dire questo, ad esempio, io posso andare in una classe, fare un sacco di esperimenti sulla riflessione e sulla diffrazione della luce, fare calcoli, però credo che una cosa semplice, come dire che la luce è qualcosa di fisico e che non è materia, oppure dire che la luce si fa vedere nel momento in cui fa vedere qualcos'altro, sono delle sollecitazioni intellettuali che forse a un certo tipo di studenti potrebbero dire di più che tante formule. Questa è la reazione, ma è di fronte a appunto quello che tipicamente si vede in un'ora di fisica, no? Perché quello che cerca lo studente è qualcosa che dia significato, che aiuti a dare significato alla sua vita. Infatti io a volte rimango stupito che lo studente possa essere più appassionato, stupito, ma è normale in realtà, dalla canzone dell'ultimo rapper di turno rispetto alle quelle importantissime cose che io sto dicendo nella mia ora. Però perché? Perché nella canzone del rapper evidentemente lo studente non è stupido, ci trova qualcosa, un pozzo a cui attingere per dare senso alla propria esperienza. Evidentemente le lezioni di fisica condotte in maniera un po' arida, no, e questo non è solo a livello, questo appunto è il mondo, diciamo, delle lettere, il mondo umanistico che si contrapporrebbe a quello arido della fisica, no? Qui è più facile ognuno può proiettare se stesso e ricevere qualcosa che può utilizzare per dare senso alla sua esperienza. Non è solo una cosa così della scuola, no? Cioè, è stata teorizzata proprio, da, vi ho già detto, Benedetto Croce, Husserl, questa scienza non ha niente da dirci. Essa esclude di principio proprio quei problemi che sono i più scottanti per l'uomo. Problemi del senso, del non senso, dell'esistenza umana e del suo complesso. Ovviamente la mera scienza di fatti non ha nulla da dirci a questo proposito. Ma non è solo, un filosofo, tra l'altro forse era un matematico, non è solo un filosofo che mai non capisce niente di scienza, no? Dice, anche Schrödinger lo dice, che è uno dei maggiori fisici del Novecento. L'immagine scientifica del mondo ci dà una quantità di informazioni concrete, conferisce un meraviglioso ordine sistematico a tutta la nostra esperienza, ma è un silenzio spettrale su tutti i problemi generali e particolari che ci sono nel nostro cuore, che hanno veramente importanza per noi. Non ci può dire una parola sul rosso e l'azzurro, l'amaro e il dolce, il dolore e la gioia fisica. Non sa nulla della bellezza e della bruttezza, del bene e del male, di Dio e dell'eternità. Io ho provato, modestamente, contro questi due mostri sacri del pensiero, a far vedere che forse, presentandola in un modo un po' alternativo, cercando collegamenti espliciti con altri ambiti culturali, forse non è così, forse la fisica in realtà, già se ci pensiamo, quando diceva Husserl, la scienza di fatti, ma in fisica c'è molta teoria, ci sono molti modelli, cioè c'è molto spirito umano in realtà, l'idea che la fisica tratti solo di ciò che tocchiamo, che vediamo, è un'idea molto, molto vecchia e superata, no? Che però magari fa ancora parte dell'immaginario collettivo. In realtà la fisica si sfiora la teologia in certi momenti, no? Con dei modelli che sono veramente grosse astrazioni della realtà, e quindi più che nella materia viaggiamo dentro noi stessi. Per finire con Max Weber, chiunque di noi viaggia in tram, non ha, oppure usi il telefonino, potremmo dire, non ha la minima idea, a meno che non sia un fisico di professione, di come esso fa a mettersi in movimento, e neppure ha bisogno di saperlo. È vero, cioè, quello, il sapere che cerchiamo è un altro, diciamo, ok, il telefonino è rotto, vado a farmelo aggiustare. So che c'è una ragione, c'è qualcosa, c'è una legge scientifica che mi dice come farlo, ma se non la so, sto bene lo stesso. Quindi la vita, la Lebenswelt da una parte, la scienza dall'altra. E questo è confermato da come vediamo la storia. Qua ci sono due John. Alzi la mano chi conosce John con gli occhiali, cioè John con la barba, no? Chi conosce John con la barba? Tutti, John Lennon, no? Icona del Novecento. Anche mia figlia, che ha 8 anni, 9, conosce qualche canzone di John Lennon. E l'altro, chi lo conosce? L'altro è John Bardeen, un bardo in qualche modo, un poeta anche lui, ma della fisica. Bardeen, mai sentito. Eppure è colui che ha costruito il primo transistor, quindi la sua scoperta è alla base della nostra civiltà elettronica moderna. Nel secondo dopoguerra, lui e il suo gruppo di ricerca hanno fatto il primo transistor. Per questo John Bardeen ha ricevuto il premio Nobel per la fisica. Qua vi racconto un piccolo aneddoto divertente. Va a Stoccolma a prendere il premio. Parlando con il re, viene fuori che non si è portato i figli. E il re di Svezia, un po' deluso, dice: ma come? Lei riceve il premio Nobel per la fisica e non si porta i figli. E lui dice: non potevano mica perdere scuola. E il re dice: ma insomma. Allora lui dice: vabbè, sarà per la prossima volta. 16 anni dopo, torna a Stoccolma a prendere un secondo premio Nobel per la fisica. È l'unico scienziato che aveva preso due Nobel per la fisica, e anche questo secondo è su qualcosa che promette di cambiare la nostra esistenza, almeno materiale, perché lo prende per la spiegazione della superconduttività, che tecnologicamente ancora è poco utilizzata. La domanda potrebbe essere una domanda, chi dei due ha influito di più sulla nostra epoca? Se Bardeen capostipite dell'elettronica moderna, o John Lennon, o tutti e due insieme, o sono complementari, non ho la risposta. Però questo è per dire quanto, diciamo, il mondo letterario sia molto più attrattivo nei confronti in generale dell'uomo e della donna qualunque, no? Rispetto a, appunto, il mondo della scienza, che è pieno di concetti magnifici che hanno un grandissimo potenziale, che però rimane nelle mani solo dei, se vogliamo, dei tecnici. E che ci sia questo potenziale umanistico, ne abbiamo qualche testimonianza. Questo Weisskopf ci dice: ci sono due cose che rendono la vita degna di essere vissuta, Mozart e la meccanica quantistica. Sembra un binomio improponibile, eppure effettivamente io penso che chi parla qualcosa sulla meccanica quantistica effettivamente ha delle prospettive che si aprono sul nostro mondo, sulla nostra realtà, su quanto poco ne sappiamo e, se vogliamo, anche su quanto in realtà ne sappiamo senza saperlo. Quindi di solito quello che pensiamo del fisico, questo non so di chi sia, l'ho trovato online, ma mi piace molto. Questo è quello che vediamo tutti, no? Quando facciamo una passeggiata all'aperto, e questo è quello che vede il fisico, quindi delle spiegazioni, no? Se indossiamo gli occhiali della fisica vediamo questo, ma in realtà quello che sto dicendo, che ho provato a dire attraverso il libro, è qua, è d'accordo, qua forse non ci arrivano tutti, cioè è anche giusto così, ci arriva chi lo fa di mestiere. Qualcosa si può dire a scuola, ma forse si potrebbe provare a far indossare gli occhiali del fisico in modo che i concetti della fisica se ne faccia un uso regolativo, cioè secondo lo spirito e non costitutivo, cioè secondo la lettera. Cioè, quando appunto ho detto la relatività, tutto è relativo, no, adesso non è così facile traslocare il concetto dalla fisica a ciò che fisica non è, no? Però magari così provare a esplorare, farsi prendere queste cose come delle provocazioni, no? Nella relatività viene messo in luce il ruolo della relazione, no? E chissà che proviamo a vedere se questo ruolo della relazione lo possiamo applicare in altri ambiti. Su questo ho degli incoraggiamenti indirettamente da altri fisici, no? Oppenheimer, ricorderete come colui che diresse il progetto sullo sviluppo della bomba atomica: la fisica possiede un'immensa analogia evocatrice di situazioni di interesse psicologico e umano. Oppure, per andare sull'altra sponda, se vogliamo proprio distinguere tra due sponde, Calvino, che se non sbaglio tra l'altro aveva una formazione scientifica perché era laureato in agraria, dice: io sono capace, a un certo punto della sua carriera, dice: io sono capace di trovare immagini solo nell'astronomia o nella genetica. E lui è bravissimo a lasciarsi provocare, in questo senso regolativo, da idee come il Big Bang, per cui tutto all'inizio era concentrato in un punto di altissima energia. La letteratura buona si può fare solo con qualcosa di diverso dalla letteratura. Cioè, mie colleghe sapranno sicuramente che, appunto, c'è stato forse anche un battibecco tra letterati negli anni 80, perché Calvino a un certo punto alla domanda qual è il più grande scrittore italiano di tutti i tempi rispose Galileo, vero? Quindi c'è uno scandalo. Ah, questo no, niente, questo non lo volevo dire, in realtà era la vecchia idea della copertina. Io ho finito, non so se avete curiosità, avrei tante cose da dire, ci sono altri temi nel romanzo, ne dico solo due. Uno è quello della musica, che Mariotti porta come esempio di ragione, di logos ridotto all'essenziale, quindi al di là dei codici linguistici, e che è quello che lui sostanzialmente evoca poi i ricordi del suo periodo ad Auschwitz. E poi c'è il tema del tempo, anche questo è il tempo un po' del conflitto, della riconciliazione possibile, impossibile, tra il tempo lineare e il tempo circolare, tra l'eterno presente in cui ognuno di noi vive e la storia. Se ci sono domande, curiosità, io ho finito. Io, scusa, una domanda che rivela la mia totale ignoranza in campo fisico. Cioè, io vorrei capire da cosa è originata la luce. Io capisco che quella che vedo io, diciamo, viene dal sole, ma ovunque nell'universo la luce è originata da una stella, e perché la stella origina luce? No, se noi se io prendo un pezzo di metallo e lo metto nel forno e lo scaldo parecchio, diventa luminoso, no? Emette luce, che non è luce riflessa, ma è luce proprio dalla sorgente primaria. Quindi no, la risposta è tutta la luce generata dalle stelle, no. Le lampadine, senza pensare al pezzo di ferro nel forno, le vecchie lampadine a incandescenza, quelle che abbiamo oggi, le luci a LED, non sono, è luce che nasce da altri fenomeni, alla base dei quali c'è sempre una carica elettrica che oscilla molto velocemente. Se oscilla più lentamente abbiamo le onde radio, se oscilla un po' più velocemente l'infrarosso, sono sempre onde che non vediamo, poi se oscilla con una certa frequenza abbiamo la luce che vediamo, frequenze più alte, ci sono i raggi X, i raggi gamma. Questa è una famiglia, in realtà quello che vediamo, che questo ad esempio è una provocazione che magari molti a scuola non hanno colto, presi dal correggitore delle formule, cioè quello che vediamo, se noi studiamo l'elettromagnetismo impariamo qualcosa su noi stessi, effettivamente, che quello che vediamo, che ci sembra tutto quello che c'è, in realtà è pochissimo. Cioè anche se semplicemente se ci confrontiamo con certi animali, no? Non so, il gatto, il cane, vedono qualcosa che noi non vediamo e noi vediamo qualcosa che loro non vedono, ma lo spettro, se noi facciamo lo spettro elettromagnetico lungo quanto tutta l'Italia, no? Quello che noi vediamo sono l'equivalente di quei 10 cm nel centro di Roma, no? Quelle frequenze lì le vediamo, le frequenze più basse, no? Quindi da Roma in giù, quelle più alte da Roma in su, sono tutte frequenze che vediamo direttamente usando delle apparecchiature, no? Però non con gli occhi, e in realtà siamo immersi da queste. Se potessimo vedere le microonde, vedremo un sacco di microonde attorno a noi, perché abbiamo tutti i cellulari, ci sono le onde radio, le onde TV, siamo in un mare di onde, e in questo mare, dicevo prima, Oliver Lodge sperava ci potesse essere anche l'anima del figlio. Allora pensavano che fosse nell'etere e quindi sostanzialmente fosse una materia, perché è veramente difficile pensare a un universo, alla natura fatta di non materia, cioè, per cui si pensava che la luce fosse comunque una vibrazione, ma di materia. La materia che vibrava non è come quando c'è un suono, che è l'aria o il legno, ma è una materia che, diciamo, è l'etere, prima o poi lo troviamo questo etere, non lo riusciamo a vedere con i nostri sensi né con le macchine che abbiamo, ma svilupperemo delle macchine in grado di vedere l'etere. In realtà l'etere non è mai stato visto, quindi a un certo punto hanno detto l'etere non c'è e la luce è qualcosa di non materiale. Sono delle oscillazioni, noi diciamo, se sono delle oscillazioni cos'è che oscilla? L'energia che oscilla, ci sono dei campi. Poi ho cambiato discorso quando ho fatto vedere Faraday è interessante la storia, perché che porto nel libro, che uso come collegamento tra campo scientifico e umanistico. Faraday arriva a capire l'idea di campo elettrico e di campo magnetico, forse, dicono i biografi, quindi dall'idea che se è possibile agire a distanza, no? Che serve una mediazione per i fenomeni, così come tra noi e la Luna, la Terra tira la Luna, diceva Newton, a distanza, e Galileo diceva questo è occultismo a distanza, no? Il mago che attira, ci deve essere qualcosa in mezzo che media l'azione, e lì poi appunto si parla di campo gravitazionale. Per la luce c'è il campo elettrico e magnetico, sono i mediatori, e quello che si è uscito con questa idea è stato Faraday, che aveva, era una persona, era uno scienziato, ma apparteneva anche a una oscura setta cristiana fondamentalista, e a cui, tra i cui principi c'era sempre quello di essere mezzo d'aiuto per gli altri, per cui lui aveva sempre questa idea dell'essere prossimo, aveva un forte, appunto, la sua fede era molto basata sull'idea della prossimità, di farsi mediatore di cose buone. Poi lui, dicono i biografi, proprio da questa idea era trasferita poi nel campo scientifico, quindi c'è una continuità, ci sarebbe una continuità tra una continuità fatta in maniera matura, nel senso che poi quella è l'idea che potrebbe anche non funzionare. Poi nel caso di questa idea, per fare, è funzionato. Per Lodge non ha funzionato, almeno per quel che ne sappiamo fino ad oggi. Sì. Io sono un po' curiosa riguardo al tuo concetto di analogia, perché tu dici la luce non è materiale, a parte che credo che la meccanica quantistica abbia cioè due possibili nature, ma il fatto che non sia materiale non ha secondo me tanta relazione né con il pensiero, cioè la frase di Husserl non è un disprezzo per la scienza, lo sappiamo, cioè la scienza arriva a comprendere determinati, a spiegare determinati fenomeni, ma non certo lo intendeva dire il pensiero, no? E il pensiero è già un'altra cosa, l'anima mi sembra un'ulteriore altra cosa. Quindi se trovo interessantissimo il tuo approccio nella scuola nei confronti degli studenti nel fatto di apprezzare la scienza che nella storia italiana non è considerata a causa di quel signore che ha fatto vedere sulla croce, ma è sul tema dell'analogia il mio dubbio, cioè può essere una dimostrazione questa o semplicemente una suggestione? No, sono d'accordo con non è una, cioè non è la mia proposta non è una soluzione, cioè non è un punto d'arrivo, è una strada, cioè una strada, è un tentativo, è un provare a, quindi un po' come le analogie, no? Uno, le analogie, come sai benissimo, sono un'arma a doppio taglio, insomma. Bisogna saper prendere la parte buona dell'analogia e sapere qual è la parte da seguire, insomma, no? Quando dico all'interno della stessa scienza o tra settori diversi, è pericolosissimo fare analogie se non si è in grado di riconoscere qual è la parte da mettere in risalto e la parte invece da oscurare. Quando dico che l'atomo è come il sistema solare, devo capire da che punto di vista. No, perché dal punto di vista delle dimensioni sicuramente no per dirla, questo è scontato, però ci sono tante cose in analogia, alcune cose molto chiare, alcune no, e alcune che potrebbero dar luogo a delle scoperte, insomma, oppure a dei grandi errori, insomma. Poi è vero, sì, come detto prima, la meccanica quantistica, infatti ho detto fino a questo punto, fino al punto che diciamo che ci serve per vivere bene, per spiegare il 99,9% della realtà quotidiana, ci basta dire che la luce è un'onda di energia sostanzialmente. Però poi, come dici tu, la meccanica quantistica ha di nuovo detto ma no, forse in realtà la luce è fatta di corpuscoli, insomma, no? Questo ho sentito dire in una trasmissione televisiva, che appunto dicevano che la luce è costituita da corpuscoli. Sì, sì. Ci avrebbe molto da dire, forse non è. Sì. Però di fatto la natura della luce oggi, i fisici sono molto più versati sul lato operativo, no? Cioè capire. Se io faccio qualcosa, cosa succede all'apparecchio, no? E meno, molto meno su quello di capire la natura delle cose, no? Se saperle descrivere, saper prevedere cosa accade, ma se alla domanda che cosa sia la luce si preferisce rispondere dicendo come si comporta la luce. Perché si comporta come un'onda se faccio così, si comporta come delle particelle se faccio quest'altra cosa. E la risposta è... Siamo talmente limitati, secondo me, nelle nostre possibilità di percezione e del tempo e dello spazio, che riuscire a capire fenomeni complessi risulta difficilissimo, perché ci mancano tanti dati che, per esempio, un cane, un gatto, un uccellino avrebbero, e noi non abbiamo, perché siamo appunto condizionati assai dai nostri cinque sensi, che hanno un ruolo piuttosto... Al di fuori di un laboratorio, sì. Va bene, io avrei finito. Non so se volete, vi dico, è stata una grande fatica a scrivere, una grande scoperta. Fatica perché volevo un po' parlare un po' di tutta la storia della fisica, quindi ho dovuto selezionare, tagliare. Però alla fine l'ho trovato molto vicino alla pratica scientifica, cioè, come ho detto prima, riuscire a trovare la formula giusta, la formula, in questo caso linguistica giusta, per esprimere un pensiero, è una cosa che non si differenzia troppo dal trovare una formula giusta per descrivere un fenomeno fisico. I disegni hai fatto tu? Questi disegni sì. Beh. Grazie. In realtà, vabbè, poi... Vuoi che ti dico come ho fatto? No, ma credo di aver capito. Hai capito? No, ho messo la fotografia sotto, le ho ricalcate. Sì, però sono ricalcate. Ma sei lo stesso. Posso dire una sciocchezza? La luce si rende visibile nel colore, non vorrei. Sì. Anche di questo un po' ne parlo, insomma, dei colori, però mai così bene come ne hai parlato tu nel tuo libro. Grazie. Più che bene, in maniera interessante, insomma, soprattutto. Grazie per essere venuto.